Allora, iniziamo anche per rispetto a quelli che sono arrivati puntuali. Purtroppo questo tempo ha fatto sì che molti abbiano disdetto, quindi per ora siamo pochini, però non importa, cioè questa è una cosa così anche un po' particolare per questo istituto, quindi magari c'è stata tanta risposta sulla lettura, però è un po' difficile anche come orario arrivare qui, no? Primo giorno di festa, piove, eccetera. Però tanto voi ci siete, quindi iniziamo. Allora, vabbè, questo progetto è così nato da un'idea di una ricerca artistica e spirituale che personalmente mi tocca e che mi ha portato qui all'istituto. E appunto in questo centro io ho iniziato grazie ai suggerimenti di Lama Zopa, che come ben sapete è il direttore spirituale di questo centro. Ho iniziato a occuparmi molto di tutto quello che riguardava l'immagine. E lui mi suggerì anche di iniziare a imparare a disegnare le tanche. E ebbi la fortuna appunto di conoscere Massimo Andreuzza, che era uno dei, purtroppo non c'è più, era uno dei pilastri, insomma uno dei vecchi, si dice qua, di questo istituto, in quanto venne proprio in quegli anni in cui c'era ancora la Maiesce. E grazie a Massimo io ho potuto imparare tantissime cose, delle tanche, dell'iconografia, eccetera, ed è per questo che questo progetto è dedicato a lui. E poi così, in questo percorso che sta continuando di questa ricerca, ho avuto la fortuna di incontrare Andrea Chiesi, che è un grandissimo artista che fa una pittura molto, molto particolare, vedrete, adesso avrete il modo di conoscere. E quindi appunto è venuta l'idea di fare questo incontro con Andrea, pittore e un altro, diciamo, artista e praticante di un altro settore, che è Vincenzo Tallarico, che è anche lui un discepolo diretto di Lama Yeshe, quindi fa parte, diciamo, di quelli che hanno reso possibile comunque questo centro. E eccola, la signora Andreuzza. E quindi insomma, diciamo, l'idea è quella, cioè l'ispirazione è proprio quella di provare a raccontare la pratica profonda di un artista, in questo caso il pittore, che ha fatto un percorso, diciamo, che nella pratica della pittura che lo ha portato nello stesso punto, nella stessa ricerca essenza di quello che è un cammino spirituale. Quindi io passo la parola ad Andrea a questo punto. Grazie a tutti, sono molto emozionato perché è la prima volta che vengo qua, quindi è un grande onore anche essere in questa sala, sono un po' intimorito anche. Io sì, vengo da Modena e faccio il pittore ho iniziato, diciamo, ad avvicinarmi al buddismo a passi molto graduali, anche in maniera abbastanza strani, se vogliamo, nel senso che avevo iniziato a sentire in realtà di parlare di buddismo tibetano nel campo della musica, in un ramo della musica punk che si chiama Industrial, dove c'erano dei gruppi che citavano in realtà la musica, i canti di gola dei monaci tibetani. Poi, ad esempio, Adam Yaunch dei Beast Boys, che divenne poi buddista, anche lui ha aiutato molto la causa del buddismo tibetano e ha inserito in una canzone dei Beast Boys una canzone dove si sentono appunto i canti dei monaci. Però, diciamo, forse l'evento che per me è stato così più rappresentativo è stato una volta che tornavo da New York, avevo fatto una mostra là e nel volo di linea c'era il Dalai Lama, e, incredibilmente. Subito non ci credevamo, pensavamo fosse uno scherzo, invece era lui, ha fatto una benedizione, insomma, e subito non avevo capito bene cosa era successo. successo. Poi un po' alla volta l'ho capito. E poi successivamente ho avuto la fortuna a Modena di c'è un, si chiama la Matashi, che è un centro piccolo, però funziona bene, quindi frequentandole poi ho avuto modo di praticare, insomma, e arrivare fino a questo punto in cui, quando mi chiedono se sono buddista, dico di sì, nel senso che appunto cerco di seguire quello che è il pensiero buddista. È difficile per un artista, sapete, l'artista si firma, no? È basato sul no, quindi c'è questo conflitto con l'ego, che per un artista forse è ancora più difficile da affrontare. Per cui in realtà volevo partire in questo modo, cioè con cose che non mi riguardano, poi magari ci arrivo, per alcune cose che apparentemente possono sembrare lontane da quello che è insomma il buddismo come si intende, ma che per me in qualche modo sono state importanti, dove io ho trovato delle affinità anche. Poi vediamo magari successivamente alcuni lavori che io realizzavo prima di iniziare questo percorso, ma poi ho trovato comunque delle connessioni, ho capito probabilmente perché li facevo, e poi i lavori invece che ho realizzato successivamente, quindi anche citando direttamente le cose che avevo imparato. Ad esempio qui ho l'originale, ma poi ho la scansione, insomma, di questo mio taccuino, che ho intitolato appunto "Quando la mente osserva la mente", che è un riferimento proprio diretto. Ma al di là di quello, adesso vi faccio vedere le immagini, perché poi appunto un pittore comunica attraverso le immagini, quindi io parlo, ma il mio modo di comunicare è di più quello visivo. La cosa importante è stata a un certo punto capire come pittura, vita e esperienza legata all'insegnamento erano una cosa sola, e come all'inizio la pittura è stata un modo anche per trovare una propria dimensione, proprio modo di vivere, e poi trasformata attraverso la pratica, è diventata essa stessa pratica. Infatti quando dico che dipingo, di solito per me dico che per me la pittura è meditazione, cioè quella che è l'applicazione, la pratica, io l'ho trovata nell'atto stesso del dipingere, e questa è una cosa che poi insomma nella storia dell'arte ci sono altri casi analoghi, anche se come dire non ortodossi, ecco, il mio senz'altro è stato un percorso eterodosso, non ortodosso, però tant'è, insomma, ognuno poi alla propria strada. Infatti inizio, in realtà volevo iniziare mostrandovi, cioè mi piaceva l'idea di condividere con voi alcune cose, ecco, non in questo caso è Baltius, pittore francese di origine polacca. Perché avevo trovato proprio martedì, mentre io ho la fortuna, tra l'altro, quindi cercare di passare quello che so a dei ragazzi in accademia, facendo una lezione su di lui, avevo trovato questo libro "Riflessioni di un solitario della pittura", alcune annotazioni che aveva fatto Baltius che mi erano piaciute molto, che volevo condividere con voi. Baltius, che tra l'altro insomma, ha lavorato molto anche su soggetti che all'epoca, ma anche oggi, insomma, sono stati poi definiti scabrosi o comunque legati all'erotismo, lui viene accusato anche di pornografia, ma in realtà lui dà un come dire, racconta la sua pittura in un modo completamente diverso. Ecco, questo è un suo lavoro molto bello. Lui ha lavorato molto sull'adolescenza, sulle ragazze. Questo quadro è un quadro che mi piace molto per la luce. Come vedete, c'è la figura in primo piano che è in controluce, e quindi questo lavoro sulla luce, sulla ricerca della luce, e poi l'essenza stessa della pittura, quindi una metafora, se volete, anche molto, molto diretta. Il lavoro del pittore che cerca la luce con quella che è la ricerca di uno di noi, no? L'attraversare l'ombra per arrivare alla luce è un percorso che esiste in molti miei dipinti. Lui definisce, dice, sono un pittore religioso. Questa è una cosa molto bella, secondo me. Tra l'altro l'ho voluto citare con voi, ho voluto portarlo a voi, Baltus, perché per quanto lui si definisse cattolico fervente, oltretutto, era di una grandissima cultura. La madre era molto amica del poeta Maria Rilke e lui stesso era amico di Antonin Artaud, di Gottuso, di Fellini, quindi una persona di una cultura immensa. Quindi tantissimi interessi anche rispetto ad altre culture, e lui era un grandissimo conoscitore e amante del Bardo Todol, il libro tibetano dei morti, un libro che anche per me è stato molto importante. Quando l'ho letto mi ha sconvolto, l'ho letto tantissime volte perché come pittore sono stato molto colpito proprio perché evoca tantissime immagini, quindi lavorando attraverso le immagini ovviamente mi ha colpito molto. Quindi in Baltus ho trovato questo collegamento con col Bardo Todol, e quindi lui si definisce pittore religioso. Questa è una cosa molto bella, perché dice: credo che la pittura deve essere religiosa o non essere. Quindi già questa è una dichiarazione. Quindi anche se uno dipinge delle fanciulle, si definisce pittore religioso. Cioè, prendiamo Cézanne, dipinge delle mele e degli alberi, tutto qui, ma lo fa in un modo assolutamente sublime. Se si ammira profondamente alla natura, non si può che essere religiosi. Dipingere quello che si ha davanti agli occhi è un modo per avvicinarsi al divino. Cioè, in questa frase c'è tutto, no? Se si ammira alla natura, non si può che essere religiosi. Dipingere, cioè quindi quello che facciamo noi, è un atto di avvicinamento, di avvicinarsi al divino. Poi vabbè, lui continua, dice di nuovo rispetto a quello che dicevo prima, no? Che la pittura è una pratica, dice: dipingere è una preghiera, l'atto stesso del dipingere è una preghiera. Inoltre occorre pregare prima di dipingere, non fosse altro per sbarazzarsi della propria personalità. Ecco l'ego, il rapporto con l'ego. Baltus, che è pittore famosissimo, con delle quotazioni altissime, lui si rapporta, almeno in queste frasi, come in realtà un pittore medievale, appunto, pittore di icone, che pittore di miniature, che non firmavano i loro lavori, che pregavano prima di dipingere e che in qualche modo annullavano la loro personalità per mettersi al completo servizio della rappresentazione, in quel caso del divino. A me è piaciuto molto questo aspetto, proprio perché risolve in un qualche modo il problema dell'ego per una persona che invece nutre per tutta la propria vita l'ego. Ci sono i nostri colleghi che certo problema, insomma, no? La personalità dell'artista, sappiamo, è abbastanza così, trabordante. Infatti parla poi del problema della firma, la figura dell'artista contemporaneo nasce col Rinascimento, sostanzialmente, quando l'uomo, ne parlavamo anche prima, quando l'uomo viene messo al di sopra della natura, l'invenzione della prospettiva che crea una profondità, ciò che sta davanti, ciò che sta dietro. Mentre in altre culture, come appunto come quella orientale, ha una rappresentazione che invece è bidimensionale, per cui non c'è questo rapporto di forza tra l'uomo superiore al resto della natura. Quindi i pittori medievali non si fermavano e non si firmavano, avevano sostanzialmente questo rapporto di umiltà verso l'atto stesso della pittura. Quindi questo era una piccola cosa che volevo. Vabbè, poi rispetto alle sue figure femminili dice che in realtà la gente pensa che si tratti di erotismo, è decisamente assurdo. Tutte le mie figure femminili sono angeli, sono apparizioni. La mia pittura è essenzialmente e profondamente religiosa. Quindi ecco, questo è un esempio che volevo portare. Poi magari ecco, questo qui è rimanendo invece sempre in ambito di pittura occidentale, avevo portato questo esempio che mi aveva colpito molto. Questo è un quadro di Lorenzo Lotto. un pittore in realtà veneto che lavorò molto nelle Marche, perché all'epoca siamo, è un pittore manierista, quindi siamo nel Cinquecento, e all'epoca il Veneto era completamente nelle mani di Tiziano, quindi Lotto dovette in qualche modo emigrare e trovò rifugio soprattutto nelle Marche. Questo è un quadro che è conservato a Recanati, un quadro bellissimo sia nella struttura, anche qua nel rapporto tra luce e ombra, e è un quadro che rappresenta l'arcangelo Michele che nell'iconografia tradizionale sconfigge Lucifero. Lucifero, come sapete, era il portatore di luce, quindi l'angelo prediletto, che in realtà cos'ha? Un eccesso di ego, un eccesso di superbia, sfida Dio, e quindi per punizione viene gettato sulla terra e cadrà agli inferi. Perché vi faccio vedere questa immagine? Perché è un'immagine molto, molto particolare, nel senso che spesso Michele o colpisce Lucifero o comunque un atto violento. Ricordiamoci che Lucifero e Michele erano amici, quindi in realtà questo quadro rappresenta una tragedia, perché è la fine di un'amicizia. È Lucifero che ha osato trasgredire le regole, ha avuto un eccesso di superbia. Ma San Michele non è irato. Se guardate il suo viso, è in realtà spaventato, è preoccupato per l'amico, e non lo sta colpendo, gli sta tendendo la mano. Quindi è come un gesto finale di tentativo di salvare l'amico, che sta cadendo, è ancora bello, vedete, ancora biondo, ha ancora delle fattezze umane belle, ma ha già la coda da animale. Quindi è l'inizio della trasformazione. Qua il pittore coglie l'attimo in cui inizia la caduta, e quindi inizia è l'istante in cui puoi in realtà ancora scegliere se cadere o se salvarti. Quindi è un quadro che io ho sempre amato, poi l'ho riletto, l'ho rivisto l'anno scorso e me lo sono appuntato qua sul mio librettino, proprio perché mi ha ricordato una frase che ho letto nel Bardo Todol, quando dice in un istante ci si perde, in un istante ci si illumina. Ecco, questo è l'istante. Un attimo prima lui poteva afferrare la mano e salvarsi. Questo probabilmente è l'istante in cui ormai tutto è perduto e lui sta cadendo. Quindi in realtà anche Lucifero, appunto, avrebbe potuto salvarsi, per cui non c'è dualismo, no? Questo rapporto tra bene e male qua, di solito la caduta di Lucifero c'è il bene che sconfigge il male. No, qua ci sono due amici, uno è impaurito e quell'altro è preoccupato. E questa assenza di dualismo mi ha ricordato proprio questa possibilità di salvezza che c'è in ognuno di noi. Quindi vabbè, questa è una scena in realtà del film dedicato a Milarepa di Liliana Cavani, un film degli anni 70. È un film molto bello, secondo me, perché colloca ai giorni loro, cioè non ai giorni, no, agli anni 70, la storia di Milarepa, per cui c'è Marpa, il traduttore, che è il professore universitario di lingue, e lui è il giovane Milarepa che sta cercando di tradurre un testo, e quindi c'è questa sorta di narrazione parallela tra quello che succede negli anni 70 e quello che succedeva ai tempi di Milarepa. C'è quasi uno sdoppiamento di personalità, lui che diventa come quasi se fosse lui la reincarnazione di Milarepa. Tra l'altro, a proposito di traduzioni, è interessante come poi negli anni 70 certi testi venivano tradotti, forse oggi si sarebbe tradotto in maniera diversa. Io mi sono notato questo perché mi piaceva molto, Qui lui sta dicendo, sta trascrivendo, sta traducendo, e ovviamente riguarda la vacuità, dice: la nozione del nulla genera la pietà. La pietà abolisce la differenza tra noi e gli altri. Il confondere sé con gli altri realizza la causa comune. Chi realizza la causa comune mi trova, e chi mi trova sarà Buddha. Quindi, Isolato è un testo molto potente. È chiaro che all'interno di un film viene recitato molto velocemente, un po' si perde, come può essere anche nel Piccolo Buddha di Bertolucci, no? C'è proprio viene recitato il Sutra del Cuore. Sono come dei semi, no? che vengono messi nell'ascoltatore. Poi bisogna tornarci sopra, perché su una frase del genere uno poi ci lavora una vita. Però anche questo è un esempio di come nell'espressione artistica contemporanea si può inserire qualcosa che riguarda questo percorso. Ecco, questo qui è un'altra cosa ancora che c'entra apparentemente poco, però secondo me c'entra molto. È un fotogramma tratto da Dead Man di Jim Jarmusch, un film degli anni 90 molto bello. Chi non l'ha visto glielo suggerisco. Praticamente è un film stranissimo, molto onirico, Dead Man, l'uomo morto, quindi si parla di morte, si parla di rapporto con la morte e anche di illusione, di realtà come illusione, di realtà che è come un sogno. Quindi c'è un altro fotogramma dopo. Questa era molto bella come composizione, in questa posizione fetale raccolta con il cerbiatto. Per andare più giù. Si è aperto Chroma per errore. Mi sa che l'hai chiuso. Si può andare giù, ecco, ok. Sì, vado giù con le frecce, grazie mille. Qui è, vabbè, c'è un Johnny Depp in grandissima forma. Qui lui sta vagando su questa canoa. In realtà lui, vabbè, non voglio farvi lo spoiler, quindi non ve lo dico, non vi dico cosa sta succedendo, così se poi vedete il film lo capite voi. Però è un film veramente basato sul rapporto tra vita, realtà, morte e illusione della vita. Quindi l'ho trovato, anche se non cita direttamente il buddismo, l'ho trovato un film a suo modo inerente. E il testo a un certo punto dice, non in questa scena, ma ho scelto questa perché mi piaceva molto, sempre anche proprio come composizione, vedete, è a suo modo ha una composizione molto pittorica, come bilanciamento di nella struttura dell'inquadratura e sempre di luce e ombre. Guarda fuori dal finestrino, non ti torna la memoria di quando eri nella barca e di quando quella notte eri disteso, lo sguardo rivolto al cielo e l'acqua di cui ti ricordavi non era poi così diversa dal paesaggio. Tu ti chiedesti come mai il paesaggio si sta muovendo e la barca è ferma. Da dove vieni tu? Tutto il film è incentrato su queste domande, se vogliamo dire, esistenziali. In più lui incontra un indiano colto, lui si chiama William Blake, tra l'altro, come il poeta, ma non sa chi è William Blake. L'indiano invece lo sa. Quindi l'indiano è convinto che lui sia la reincarnazione di William Blake, per cui l'indiano è una sorta di guida, no? Che lo guida in questo percorso verso non vi svelo cosa, insomma. Quindi c'è questo rapporto anche con la poesia e con la vita e con la morte. Ah no, scusa, vado avanti, hai ragione. Vabbè, allora, questo qui è un altro di quei momenti così che per me sono stati molto importanti. Un altro film di Jim Jarmusch, Ghost Dog, esatto. Ghost Dog, che è un film sempre degli anni 90. Questo è Wintaker, l'attore. È una storia molto particolare, a tratti anche ironica, di questo nero, che è sostanzialmente un samurai dei giorni nostri. E io per un certo periodo ho praticato arti marziali, poi ho lasciato perdere perché purtroppo oggi il mondo delle arti marziali è un mondo di picchiatori che hanno perso completamente il senso delle origini, il senso zen delle origini. Però, come dire, in ogni cosa tu puoi trovare dei semi che poi rielabori e porti all'interno del tuo percorso, se vuoi fare un certo tipo di percorso. Quindi questo è un film meraviglioso. Qui tra l'altro lui, vedete, sta luggendo, lui è... vive in una baracca sopra un tetto, alleva piccioni viaggiatori ed è espertissimo nelle arti marziali, nella spada e soprattutto nelle armi da fuoco, insomma, quindi, e legge la Gakure, questo è il libro che era allegato, all'epoca c'erano questi cofanetti che faceva l'Einaudi, quella la videocassetta, insomma il VHS dentro, il Codice Segreto del Samurai, un libro che mi ha colpito molto perché è stato scritto nel 1700 da questo Yamamoto Tsunetomo, che era praticamente era da poco entrata in vigore quella norma che vietava ai samurai di fare seppuku, cioè di uccidersi, alla morte del signore, perché sapete quando moriva il signore, il samurai non poteva vivere dopo la morte del signore, quindi non poteva fare seppuku, quindi diventò monaco zen. Quindi ecco, monaco zen. Però era stato un samurai, quindi lui passa gli ultimi anni della sua vita a scrivere questo codice, che è un libro molto molto bello, forse qualcuno di voi l'ha già letto, scusate se ripeto delle cose che sapete già, altri magari no, quindi anche questo è un invito a conoscerlo, perché mescola proprio le due cose, che anche questa è una gravissima contraddizione se ci pensiamo, insomma, samurai che ammazza la gente, di fatto, che è al servizio di una casta di guerrieri, non dimentichiamo che la casta dei samurai sarà poi quella che nutrirà l'imperialismo dell'impero nipponico, che porterà all'invasione della Cina, allo sterminio di tantissimi, fino alla guerra, alla seconda guerra mondiale, quindi parte, comunque nei samurai c'è comunque questa radice zen, probabilmente storpiata, probabilmente deformata in tante cose. Mi ricorda, se cito a voce questa cosa, se segreto, parla ad esempio anche del fatto che il samurai si trucca prima di andare in battaglia, si fa bello, si deve truccare, si deve dare il rossetto, si deve dare la cipria, si deve pettinare, perché deve andare incontro alla morte presentandosi bene. Deve essere elegante, quindi anche l'importanza della forma, sapete i giapponesi quanto ci tengono a sta cosa. Però è pieno di passi buddisti, ci sono quelli che riguardano l'ammazzamento, ma ci sono, quindi è interessante anche per questa contraddizione. E è ulteriormente interessante perché un codice che si basa sostanzialmente sull'ubbidienza, perché il samurai ubbidisce fino in fondo al suo signore, nasce da un atto di disubbidienza, perché lui quando sta per morire ordina al suo allievo di distruggere il codice, perché era un codice segreto, e l'allievo non lo fa, l'allievo lo salva questo codice, ed è il motivo per cui è arrivato fino ai giorni nostri, quindi è un testo molto, molto interessante, anche perché dà uno spaccato della società feudale giapponese. Questo periodo, siamo nel 1700, quindi siamo ormai verso la fine del medioevo giapponese, ma ancora è pieno di questa cultura che a mio parere appunto ha preso il buono dello zen, ma l'ha portato in una forma deviata, appunto quella dell'ubbidienza cieca. È interessante, diciamo, il samurai interpreta la vacuità come disprezzo della morte, quindi siccome la realtà non esiste, io sono sempre pronto a morire, no? Il fatto, se volete, nel nostro percorso, quando noi diciamo no, la riflessione sulla morte che ci porta non in qualche modo affrontare anche questo grande passo, per il samurai è io non ho paura di morire né di portare la morte, quindi qual è il problema? Che manca completamente l'aspetto della compassione, c'è se volete la consapevolezza della vacuità, ma non c'è la compassione, quindi c'è la totale adesione a un codice militare, e questo è molto pericoloso, insomma. Però è un libro molto interessante, e il film ha dei tratti anche molto comici, perché poi lui combatte contro una banda di mafiosi italoamericani che è veramente spassosa, perché li prende in giro. C'è il mafioso che c'è Rubinetti in oro, che parla male dei neri ma balla il rap, quindi insomma è pieno di cose così, contraddizioni. Ecco, questo invece è un altro film molto più impegnativo, Enter the Void. Questo è molto tosto, sì, però anche questo è ispirato al Bardo Todd. Vedete, questo è il libro che ha in mano il protagonista, qui è proprio la scena del film, è il libro che lui sta leggendo, ne parla con sua sorella, Enter the Void si chiama, è di Christopher Noé, se ricordo bene, è un film di qualche anno fa, e questa è la scena. Lui praticamente in realtà è un, credo, inglese che vive a Tokyo, lo raggiunge sua sorella, loro sono orfani, i genitori sono morti in un incidente stradale, quindi hanno subito questo trauma violento, da piccoli hanno visto morire i loro genitori in macchina, quindi sono tutti e due molto segnati da questo evento drammatico, e sostanzialmente la sorella non sa bene cosa fa il fratello per vivere. Il fratello è uno spacciatore, però uno spacciatore piccolo, viene incastrato, quindi la polizia lo vuole arrestare, lui scappa in questo locale, si chiude dentro questo bagno molto, molto misero, e la polizia spara e lo uccide. Quindi questo è il momento in cui lui è morto. E cosa succede? Succede che lui stava parlando con la sorella qualche ora prima del libro di Vietnam dei Morti, e il film è strutturato, ispirato perlomeno a questo, cioè questo è il momento in cui la mente, no? la mente sottile, i cristiani direbbero l'anima, comunque l'immagine, ecco, diciamo così, da pittore io dico l'immagine, lo sguardo si stacca dal corpo, quindi lui si sta osservando da fuori, lui osserva il proprio corpo che sta morendo, e tutto il film è basato su questo, cioè su lui quindi che vaga, la sua mente sottile, la sua anima, chiamiamola come vogliamo, che vaga alla ricerca di una rinascita, di un nuovo corpo. Anche qua non vi faccio lo spoiler, non vi dico come va a finire. È un film molto pesante, molto acido anche, perché è poi tutto legato al mondo anche della droga, quindi ci sono delle scene abbastanza pesanti, però è un film molto bello. E lui vive anche il trauma, questo vabbè, ve lo posso svelare, dell'aborto, cioè lui cerca di rinascere in un corpo che poi viene abortito, quindi ritorna di nuovo in circolo, in sostanza. Quindi, e anche qua ci sono delle frasi comunque che ritornano poi nel sentiero, nel nostro sentiero. Ecco. E qui in internet ho trovato l'edizione esatta, perché questo è il fotogramma del film, in internet hanno trovato la copertina esatta dell'edizione. Questo invece, alleggerendo un po', Osamu Tezuka è stato un disegnatore di fumetti giapponesi bravissimo, quello che ha fatto Astro Boy, anche per intendersi. Questo è l'ultimo volume di 14 di una saga dedicata a Buddha, è stata tradotta anche in italiano, anche se è abbastanza difficile da trovare adesso, che parla con il codice narrativo del manga della vita di Siddhartha. È una storia bellissima, mi ha veramente commosso io quando l'ho letta. Tra l'altro alla biblioteca Delfini di Modena hanno tutti i volumi tranne questo, tranne il 14, quindi ero rimasto malissimo, beh, mi mancava proprio l'ultimo, sono andato a cercare, alla fine poi l'ho comprata tutta perché la volevo tenere. E qui abbiamo, vedete, la copertina, proprio c'è il Buddha che si sdraia, entra nel paranirvana, insomma, cioè, racconta la sua morte. Quindi il codice narrativo del manga, quindi questa è la nascita, vedete, qui è quando nasce Siddhartha, questa è l'edizione inglese, ma esiste anche in italiano. Quindi alcuni disegni sono nello stile classico del manga, che a noi può sembrare un po' infantile e un po' superato, perché comunque è una storia, credo, della fine degli anni 70, se ricordo bene. Però ha dei disegni come questo, Tezuka è un disegnatore formidabile, quando qui è il Buddha seduto in meditazione, quando disegna la natura, è insuperabile. Ci sono dei disegni di paesaggi, di alberi, di fiumi, di foreste, dove lui disegna nei minimi dettagli le foglie e la vegetazione natura, che è stupendo. Cioè, questo è, vedete anche la differenza di stile da qua a qua. Ha proprio come, qui c'è un'accelerazione narrativa, perché racconta tutte le storie della vita del Buddha, le sue vicissitudini. Sono 14 volumi, quindi è veramente un'opera enorme. Poi in alcune tavole rallenta e crea dei capolavori. Questo sono dei disegni che sono delle opere d'arte, però, per cui è un'altra, come dire, un altro stimolo. Io vi sto passando alcune cose, per me sono state importanti, poi dopo così sono suggerimenti, uno fa, ecco, questo, qui ci sono alcuni libri che in qualche modo per me sono stati importanti. Questo è un libro di Aldo Tollini sullo Zen. Questo è il canto dell'immediato Satori, che appunto venendo alle arti marziali e lo Zen, se, dopo in realtà poi mi sono avvicinato al buddismo tibetano perché l'ho sentito più vicino a me, anche proprio per questo aspetto visivo che mi aveva risvegliato leggendo il Bardo Todo. Questo è un libro interessante di Richard Gombrich, che è il figlio in realtà di Gombrich, il professore, lo storico d'arte contemporanea, e che è un esperto di filosofia orientale, e è un libro molto interessante perché racconta il pensiero del Buddha prima del buddismo, cioè quindi affronta il pensiero del Buddha dal punto di vista filosofico, estremamente rispettoso, ma in maniera molto storica anche, quindi non ponendosi il problema del sentiero, del Dharma o della religione, ma analizzando proprio il pensiero in maniera filosofica. E questo è un libro che, collocandolo anche, fa un lavoro interessante, perché lo colloca nel periodo storico, quindi in estrema sintesi, cioè lui considera il pensiero del Buddha come un'evoluzione di quella che era la cultura indiana, insomma, quindi come il pensiero del Buddha nasce dalla filosofia dei testi indiani suoi contemporanei. Questo, vabbè, Santideva, il cammino Bodhisattva, anche questo è un testo che mi è piaciuto molto. Tra l'altro qua c'è la rappresentazione di Buddha, direi, con uno stile ellenistico del periodo Gandharva, ne parlavamo, no? come quindi l'influenza tra Occidente e Oriente già 2500 anni fa. Vabbè, questa è la copertina del libro tibetano dei morti, che con la rappresentazione sotto il Bhava Chakra, che utilizzando la simbologia dei colori, inserisco una lezione sul Bhava Chakra all'interno del corso di cromatologia che faccio in Accademia, perché sapete ognuno dei sei mondi è legato a un colore, quindi mi aggancio a questo per parlare di buddismo tibetano anche ai ragazzi in Accademia, e sono tutti interessatissimi, perché ovviamente anche dal punto di vista proprio artistico il disegno dei tangta e della pittura religiosa tibetana affascina molto, è molto affascinante. Soggya Rinpoche, il libro tibetano, che tra l'altro credo che sia scomparso da poco. Soggya Rinpoche, questo è un libro molto bello, che insomma l'ho capito molto bene proprio all'inizio, quando non sapevo nulla di questo Thich Nhat Hanh, anche lui straordinario, come questa è la vita di... Questi sono alcuni libri purtroppo che ho prestato, non mi sono tornati indietro, ma vabbè, fanno il loro cammino, seminano, sì, io questa cosa che libri li presto e poi vabbè. E Norbu, grazie a Elena. Altri ne arrivano, infatti uno scambio, torno indietro e vabbè, e concludo ovviamente con il Dalai Lama, uno dei tanti, ho scelto questo per... vabbè, questa era la prima parte che riguardava alcuni stimoli, poi magari per non annoiare... voglio parlare solo 5 minuti. Quello a cui abbiamo assistito è stata una narrazione che in termini junghiani possiamo chiamare mitobiografica, no? Cioè la rappresentazione di miti, di storie, di Andrea, nella sua vita, nella sua ricerca, e che ha a che fare con la vita, con la nostra vita. ricordi, sogni, riflessioni, no? Direbbe Jung. Ci sono delle immagini che ci colpiscono. Perché? Perché l'arte è il linguaggio dell'anima. Se facciamo un attimo di... se ci soffermiamo un attimo, psicologia e psiche logos, cioè studio di psiche. E psiche è il greco di anima, che non è l'anima teologica, ma io direi è l'anima naturale. Dicevo prima a Elena che a me è antipatica la parola spirituale, no? Perché la parola spirituale diventa come antagonista, se noi lo cerchiamo nel dizionario, alla parola materiale. Quindi, come dire, per me Dharma è un percorso naturale, non è un percorso spirituale. Perché in psiche, naturalmente, in maniera naturale, risiede quello che in termini buddhisti viene chiamato vuoto, o shunyata, che altri rappresentano come Dio. E Lama Yeshe diceva che quello che i cristiani mettono fuori, i buddhisti mettono dentro. Quello che per i cristiani è Dio, Dio esterno, per i buddhisti è il Dio interno. E comunque è un creatore, come la nostra psiche profonda crea, nello stesso modo Dio crea i mondi, e la nostra psiche crea il mondo, no? Questo che noi stiamo vivendo ora è un mondo come lo viviamo noi, sulla base del nostro percorso psicologico. Ormai la psicologia è diventata come una scienza cognitiva, anzi si chiama scienza cognitiva, no? Addirittura si chiama scienza del comportamento. Cioè si osserva il comportamento, e la parola introspezione è stata bandita, diciamo, sostanzialmente come un retaggio antico rispetto allo studio della psiche, dell'anima, no? Quindi, come dice James Hillman, perde il suo oggetto di osservazione, perché nel momento in cui psicologia perde psiche, quindi la percezione dell'anima, semplicemente sta guardando un'altra cosa, sta guardando qualcosa che si vede, come al solito, che si può vedere, si può pesare, eccetera. Ma le motivazioni dell'essere umano possono essere percepite solamente a livello individuale, attraverso l'introspezione. Ecco come un cammino, diciamo, che porta all'espressione artistica, passa attraverso la contemplazione. Nel sutra del cuore il passaggio è, secondo me, fondamentale: è dal vuoto alla forma, dalla forma al vuoto. L'artista cattura dal vuoto la forma, e poi di cosa se ne fa di questa forma? Beh, questa forma può essere acquisita, specie se c'è successo commerciale, per ampliare le strutture egoiche, narcisistiche diremmo noi, oppure può ritornare al vuoto, quindi dal vuoto la forma, si estrae la rappresentazione, e dalla forma si ritorna al vuoto, e dal vuoto, come ha detto te Andrea, si ritorna alla compassione. Allora il percorso artistico, che tiene in maniera, diciamo, che soppesa nella stessa maniera di importanza, nella stessa importanza, appunto, attenzione, devozione, contemplazione, sia la forma sia il vuoto. Allora in questo caso è vero, l'operazione artistica diventa un'operazione religiosa, proprio nell'etimo della parola, da religio, mettere insieme, raccogliere. Religione vuol dire raccogliere, non separare, no? C'è questa bellissima storiella di questo maestro sufi che riceve in regalo da un imperatore un paio di forbici tutte tempestate di pietre preziose, e lui le rifiuta. Cioè, perché? Perché il mio lavoro non è quello di tagliare, il mio lavoro è quello di cucire. Per cui basta che tu mi regali un semplice ago, no? Questo è il regalo che voglio che tu mi fai. Quindi questo cucire, si potrebbe dire, è una fluttuazione fra lo spazio vuoto, la forma, e dalla forma di nuovo allo spazio vuoto, no? Questo è quello che auguro a tutti gli artisti. Ecco, sì, cioè adesso penso che sarebbe bello vedere i lavori di Andrea, perché non tutti lo conoscono, quindi... Sì, sì. A proposito Diego, sono un po' imbarazzato a far vedere i miei lavori. Comunque, andiamo nell'altra cartella, scusami, che... Cosa faccio? ESC? Andiamo alla forma. Dunque, perfetto. Quale? Dunque, beh, possiamo aprire tutti, se resta aperto, o bisogna fare solo le singole cartelle? No, possiamo aprire tutti. Possiamo tutti, fino, tranne i libri che l'abbiamo già fatto, così... Sì, sì, prego, prego. Sì, sì. Sì, anche dipinti. Grazie. Tanto dopo così vado a scorrimento. Sì, beh. E poi dipinti. Deve esserci. L'altra attesa. Tra l'altro, cioè, siccome niente avviene per caso, io ho dipinto per tutta la prima parte. Allora, io nasco praticamente come disegnatore di fumetti underground nel periodo primi anni 80, legato al mondo della musica punk, collaborazione con i CCCP, Fedele Aline, eccetera. Per cui tutti gli anni 90 io in realtà disegno soltanto, poi negli anni 2000 inizio a dipingere, dopo vedremo i dipinti, per 20 anni praticamente sostanzialmente dipinto a olio su lino. Poi per tutta una serie di situazioni recentemente sono tornato al disegno. Inizialmente non capivo cosa stava succedendo, poi appunto ho letto tutto come sempre sappiamo benissimo causa e condizione, no? Per cui ho accettato questa cosa che era un po' anche concluso un certo periodo, è uscito un libro e quindi sono tornato alle mie origini, a questi quaderni che io chiamo taccuini. Questo è un po' più grande, un formato A4, però come vedete è datato 2019 e l'ho intitolato Dharma privato. Perché? Perché non scende? Sì. Devo andare su, quindi aspetta, così vedo. Ah, è l'opposto. Fatto del conto, la fa confusione, scusa. Ok, da qua. Ah, adesso va. Sì, adesso va bene. Perché è un po' come quello che vi ho fatto vedere prima, no? Cioè ci sono delle cose che riguardano i testi, però è tutto. È eterodosso, non è ortodosso. Io infatti non riesco a dipingere immagini religiose, prettamente religiose, perché. È un percorso dove io interpreto attraverso il mio modo di dipingere, il mio modo di sentire, un'esperienza personale, per cui credo che soltanto appunto un monaco possa dipingere immagini religiose. Io che sono laico, no, io posso al limite portare la mia esperienza, ma è un'esperienza privata. Ecco perché Dharma privato, perché si ispira ai testi, ma è portato in una dimensione privata. Perché non, quindi ci sono delle annotazioni, come qua, ad esempio ho trascritto alcuni testi, ho trascritto alcuni sutra all'interno di questa rappresentazione di corpi spesso immersi in questo colore blu. Poi insomma, anche da la Farbenlehre di Goethe allo spirituale nell'arte di Kandinsky, il blu è considerato il colore dell'interiorità, il colore dell'anima, il colore dell'introspezione. Leggendo poi il Bardo Todd ho scoperto che il blu è anche il colore che ha determinato, no, la nostra rinascita nel mondo degli umani, quindi non so se c'entra qualcosa, però il blu è un colore blu che tira verso il grigio pain, è un colore che è usato molto. E spesso ci sono queste figure solitarie cariche di luce, cioè la luce viene da dentro, che io l'ho sempre interpretata come appunto per noi che abbiamo i nostri traumi, abbiamo le nostre sofferenze, cerchiamo la salvezza, cerchiamo la luce, cerchiamo l'illuminazione, questo fondo magmatico blu. Tra l'altro questo, spesso nei miei lavori c'è il percorso, vedete, c'è la via, c'è la strada, c'è il cammino, verso cosa? Verso qualcosa, come diceva qualcuno, l'orizzonte è un ideale, l'orizzonte non lo puoi raggiungere perché è sempre al di là, però nel tentativo di raggiungerlo nel frattempo hai fatto un sacco di strada, quindi hai avuto delle esperienze, hai fatto un percorso, quindi magari ti trovi nell'orizzonte anche se non lo vedi più, perché l'orizzonte è sempre al di là, è sempre oltre. E anche quindi questa prospettiva c'è spesso nei miei quadri, è una metafora anche molto semplice, se volete, del cammino, di un cammino di vita, di un cammino esistenziale, di conoscenza e di elaborazione del nostro vissuto. Vabbè, questi sono lavori molto veloci fatti anche ostro di china. Questa è una figura che si sdoppia, quindi mi piaceva questa idea. Ho lavorato molto sul concetto del riflesso, no? Di realtà che non esiste, di realtà illusoria, di riflesso della realtà. Tra l'altro la pittura stessa è un riflesso, no? È una realtà che non esiste. Il pittore crea una realtà inesistente, una realtà illusoria, crea un'illusione. Quindi anche qui ho riletto tutto il mio lavoro secondo gli insegnamenti della realtà come illusione. Quindi noi viviamo una realtà illusoria e a nostra volta creiamo delle altre realtà come illusione. Spesso vedete, anch'io mi piace insomma disegnare il paesaggio, ho lavorato tantissimo sul paesaggio, per molti anni ho lavorato su paesaggi abbandonati, sull'archeologia industriale, sui paesaggi abbandonati, perché il luogo abbandonato in qualche modo rappresenta una sospensione temporale, trattiene la sua storia e in attesa di un'altra storia, quindi questo momento sospeso è un momento carico di tante cose. Però dipingo anche elementi naturali, ci sono tornato sopra recentemente, questo ad esempio è la piena del fiume, c'è stata tempo fa, e quindi ecco l'elemento dell'acqua che scorre, che travolge, l'acqua che porta vita. Oggi sono venuto qua, sono una pioggia torrenziale, e mentre guidavo non ci vedevo niente e mi consolavo pensando a Thich Nhat Hanh, no? Quando diceva: quando bevi il tè stai bevendo le nuvole, se non piove non crescono le piante e non posso bere il tè, quindi sopportiamo l'acqua e siamo arrivati sani e salvi. Quindi l'acqua del fiume, la piena del fiume violenta, questi argini sembravano piccolissimi, tremolanti al passaggio della violenza della natura, per fortuna gli argini ottenuti, quindi l'acqua come è benevola così è distruttrice, insomma. Quindi, questi sono i test, perché poi ecco, questo qui è così una volta udì, il Bhagavan eccetera, sapete tutti, il sutra del cuore, perché anche il fatto di trascriverlo è la pratica, esatto, è la pratica del disegno, quindi ancora di più trascrivere il testo è come recitarlo, ma ancora se volete in maniera più incisiva perché lo trascrivi. Ecco, questa è la Darsana di Ravenna, l'Accademia tra l'altro è qua vicino, anche qua c'è sempre l'idea, vedete, del percorso, del fiume, dello scorrere, delle nuvole. Ho dipinto spesso le nuvole perché le nuvole scorrono, è come la vita che scorre, l'impermanenza, esatto, anche gli edifici abbandonati sono il simbolo perfetto dell'impermanenza, no? Edifici potentissimi, edifici enormi dove vengono costruite, macchine vengono costruite, il simbolo stesso del Novecento, il lavoro, è la crescita industriale, la crescita economica e poi l'abbandono, quindi quello che una volta era simbolo di ricchezza, di potenza, oggi è un problema, è vuoto, è abbandono. E le nuvole mi piacciono perché scorrono, cioè in fondo scorrono sopra di noi, sopra le tribolazioni umane, e si trasformano continuamente, quindi osservare il cielo credo che questo sia, non è via, sempre lo sguardo basso, quello che facciamo, quello dove camminiamo, le nostre tribolazioni, alzare lo sguardo e guardare le nuvole è anche quella è una buona pratica. Vabbè, sempre queste figure un po' sofferenti, questo è un altro impianto industriale. Ovviamente nei taccuini c'è questo segno molto veloce, vedrete invece nei dipinti come il segno è diverso. Quindi è un altro, adesso qua non ci sono tutte le pagine. Ecco, spesso sono figure androgene, quelle che io adesso, questa qui è una figura femminile abbastanza definita, ma spesso sono figure androgene perché mi interessa rappresentare un essere, esatto, quindi può essere maschile, può essere femminile, diventa in qualche modo paradigma dell'essere umano, per cui non è così connotato. E questo è il delta del Po, tra l'altro, quindi di nuovo l'acqua che scorre, che si rischia, che torna nube, insomma, questo ciclo. Anche qua è il bilanciamento tra pieno e vuoto, tra chiaro e scuro, tra luce e ombra, deve far funzionare l'immagine. Bisogna dare ordine, no? C'è tutto un ciclo di miei dipinti che si chiama Caos, che in realtà sono ordinatissimi, perché è questo tentativo di controllare le forze caotiche esterne e interne che abbiamo dentro di noi. Io ho dei problemi, io e questo tasto abbiamo dei problemi. Sotto. È più sotto. È l'altra, pensavo si aprisse in automatico l'altra cartella. No, ok. Ah no, perché allora quindi andiamo. No, c'era. Quindi questo era il dramma privato, esatto, quando la mente, che è questo qua. Facciamo una volta. Questo è l'originale qua. Tra l'altro, se qualcuno vuole vedere l'originale, ce l'ho, potete vederlo. È fatto a pennarello e inchiostro di china, è un alternarsi in maniera, uso la parola casuale, anche se sappiamo che il caso non esiste, però in maniera senza un ordine preciso di immagini, anche perché era un taccuino che avevo iniziato anni fa con delle annotazioni del corso della sicurezza per l'Accademia, quindi cose molto tecniche, poi l'avevo mollato lì. E poi l'ho ritrovato e ho detto, ma sai cosa, lo copro, quindi ho coperto tutte le cose che avevo scritto e l'ho continuato. Ecco qua, quindi anche qua vedete, qui c'è il segno pennarello molto molto molto veloce, molto molto schizzato, e anche qua, ecco, i corridoi, poi li vedrete anche nei dipinti che invece sono realizzati con una precisione analitica al limite dell'ossessione. Ecco, il problema poi della pittura, la pittura mi ha salvato, il problema è che poi era diventata un'ossessione, quindi la pratica mi ha aiutato a fare il passo successivo, quindi a non restare attaccato alla pittura, perché il problema è quello, no? O l'ego o la pratica stessa del non staccarsi mai, e quindi trovare un bilanciamento. Il corridoio, metafora dell'attraversamento, della porta, anche qua, come dicevo prima. Questi, vabbè, sono tutta una sequenza di disegni. Qui c'è l'introduzione anche del colore, vedete, io uso poco il colore perché è tutto basato molto su un contrasto chiaroscurale, quindi non ne ho bisogno, però negli inchiostri li uso spesso. Vedete, il segno è molto molto rapido, spesso ci sono più arti, più gambe, più braccia, proprio per dare una dimensione così, un po' di stranezza. L'archivio, gli archivi ne ho dipinti tanti perché è l'idea delle vite che mi affascina, no? Gli archivi sono una raccolta di tante storie, quindi tante vite archiviate, ogni faldone è una vita, una storia, qualcosa, ed è un tempo sospeso, perché in realtà finché i faldoni sono dentro gli scaffali sono come dimenticati, finché qualche storico non li estrae. E mi aveva colpito il fatto che, parlando con un archivista, loro non sanno mai esattamente quanti documenti hanno. Ad esempio l'archivio storico di Modena, loro hanno circa 40 chilometri lineari di documenti, però ogni faldone poi a sua volta ha all'interno degli altri documenti, quindi non li hanno mai contati tutti perché sono troppi. E quindi questa idea delle vite che scorrono una dopo l'altra, della rinascita, del tempo che passa, dell'impermanenza, anche qua mi sembrava una bella idea per rappresentare un concetto del genere. Poi da un punto di vista anche proprio architettonico sono belle, sono questi corridoi che tendono un po' a risucchiarti, dove cambia anche l'eco, cioè cambia il suono, c'è l'eco del quando parli. Questo è un testo, vista la giornata di oggi che pioveva, di Derek Jarman, pittore e regista inglese, morto di AIDS, che qui è un libro che si chiama Chrome, se ricordo bene, un libro sui colori. Molto bello, dice: dalla montagna incombe minacciosa una tempesta, mentre passeggia nel recinto del suo giardino, discutendo col giardiniere come si pianta un'orchidea, Plinio il giovane, siamo nell'antichità, viene interrotto dalle prime pesanti gocce di pioggia. Qua mi sono dimenticato di scriverlo. Si precipita indietro, passa per il cortile marmoreo, evitando l'acqua della fontana che zampilla dai mosaici, e raggiunge la camera da letto attraverso le porte due battenti. Sul divano riprende il volume di Aristotele sul colore, sotto la luce virata al verde da un'enorme vite che si inerpica sul soffitto. In quella camera, dice, è impossibile non immaginare di essere in un bosco, protetti dal rischio di pioggia, e mentre il temporale aumenta, Plinio darebbe ragione ad Aristotele. L'oscurità che avvolge la sua camera non era un colore, ma un'assenza di luce. Quindi qui è Derek Jarman che inventa questo pensiero di Plinio, che risponde a sua volta ad Aristotele su che cos'è il colore, sul rapporto tra luce e oscurità. Quindi come il colore, non lo sappiamo, in realtà è una frequenza della luce, quindi quando la luce scompare non c'è colore, quindi l'oscurità, che è l'oscurità del temporale, mi è piaciuto leggerlo perché oggi siamo sotto questa pioggia battente, i colori sono tutti alterati, ma perché? Perché non c'è luce, quindi il rapporto tra noi e la luce, anche l'aspetto simbolico della ricerca della luce, è una metafora che credo abbia coinvolto e ossessionato un po' tutti i pittori, perché quando tu dipingi utilizzi il colore e porti la luce attraverso l'utilizzo del colore, quando invece disegni, come in questo caso qua, sfrutti la luminosità del foglio di carta nella trasparenza del colore, quindi usi il colore come velature molto trasparenti, quindi sfrutti la luce della carta. Vabbè, qui ho recitato, c'è un mantra. Le porte, ecco qua quello che ho letto prima, di Lotto e di Lucifero, questo quello di Ghost Dog, Dead Man, questo vabbè, l'autostrada, un periodo che faccio un sacco di strada tra accademie, viaggi vari, quindi la metafora del viaggio, del passaggio, quindi del tunnel. Questo non mi ricordo dove l'ho letto, però l'ho trascritto, dice la libertà, forse è il testo sempre di preso dal film della Liliana Cavani. La liberazione, dice il Buddha, non viene dal di fuori, è un'esplosione spontanea della mente. Non potevo aiutarti di più. È quasi un come dire, io ti ho dato tutto, adesso tocca a te. È un po' come ammettere anche a un certo punto i limiti, no? Dell'insegnamento, tu dai tutto, però più di così non ti posso aiutare, è un'esplosione spontanea della tua mente, quindi viene da te. Non... Io dico sempre anche agli studenti, io non vi posso insegnare a dipingere, io vi posso indicare qual è il percorso, ma il percorso dovete farlo voi, io vi indico la porta, però siete voi che dovete attraversarla, perché è il vostro percorso, quindi c'è sempre questo parallelismo. Questi, vabbè, i miei. E qua, quando la mente osserva la mente, tutti i pensieri hanno fine e l'illuminazione è raggiunta. Anche questo l'ho letto da qualche parte. Ecco. Questo è un altro taccuino ancora. Ecco, qui avevo provato a disegnare una resurrezione, però alla fine ho cancellato il viso perché non mi sentivo adatto a rappresentare l'immagine di Cristo, mi sembrava troppo, non sono un prete, non sono un monaco, dire, non me la sento, non sono all'altezza. Per cui ecco, anche io ho spesso ripreso deposizioni perché fanno parte della nostra iconografia. Peraltro le deposizioni cristiane sono prese pari pari dalle rappresentazioni classiche, ci sono il trasporto dell'eroe morto da parte agli altri guerrieri è quello che ha ispirato poi le deposizioni cristiane, quindi tutto è collegato, come vedete. Questo è il mio studio, questi sono i vari boschi fatti a pennarello, ecco, questo è un cimitero, ecco qua si è aperto, dov'è? In automatico. Quindi qui concludiamo, è l'ultima parte, questi sono invece i dipinti, come vedete è dal punto di vista tecnico è una cosa molto diversa, questi sono dipinti a olio su tela di lino. Queste sono le prime cose che facevo al 99-2000 più o meno, partendo dall'ex fonderia di Modena e all'epoca ancora non sapevo molto, non sapevo praticamente niente del buddismo, però poi ho riletto tutto il mio percorso come questo, come in fondo una riflessione prima inconsapevole e poi consapevole sull'impermanenza, sul vuoto, sulla vacuità. Questa è una fabbrica abbandonata, vuota, no? Tra l'altro anche molto dal punto di vista grafico molto simmetrica, vedete la parte di sopra, la parte su una grande pulizia, oppure queste sono dei carri ponti da porto, in realtà prendono su i container dalle navi, le portano sui treni, però io le vedevo come dei grandi animali, come delle anche qua dei simboli un po' del mondo meccanico, zoomorfo, e come delle linee che attraversano il cielo, attraversano lo spazio. Qua. Qui ero banalmente partito dal parcheggio di un centro commerciale, poi avevo tolto, erano rimasti solo questi pali, e mi piaceva molto perché qua dava l'idea dell'orizzonte, dava l'idea, sì, era il periodo qui che comunque studiavo lo Zen, quindi questa idea del vuoto, della sottrazione mi piaceva molto, però poi anche qua arrivato a togliere tutto ho detto vabbè e dopo, quindi ho ricominciato ad aggiungere, perché poi non è che per rappresentare il vuoto bisogna, anzi per riflettere sul vuoto bisogna per forza rappresentare qualcosa di vuoto, no, si può anche lavorare all'opposto, si può lavorare esattamente anche all'opposto, insomma. E il discorso dei corridoi, come vi dicevo, è un po' uno dei miei temi ricorrenti. Peraltro i pittori lavorano spesso su due o tre soggetti, hanno dei leitmotiv, hanno delle ossessioni, non so, Morandi con le sue bottiglie, ogni pittore spesso ha dei codici che ripete, perché in realtà ogni volta cambia qualcosa, sei cambiato tu, ogni giorno noi siamo diversi, quindi anche se torni sullo stesso soggetto lo dipingerai in maniera diversa, e anche perché, come diceva qualcuno, quando c'è qualcosa di importante a dire è bene ripeterlo, sapete benissimo, la ripetizione del mantra, la ripetizione del sutra del cuore è per capirlo ogni volta meglio, per ricordarselo, per analizzarlo ogni volta da un punto di vista diverso, quindi anche per questo... ecco, qui il discorso del riflesso, vedete la pozzanghera, quindi qual è la realtà? Cioè già il dipinto è una proiezione della realtà, più a sua volta la realtà è riflessa, quindi qui dopo in alcuni, dopo li vedrete, c'è completamente l'azzeramento della terra, quindi non si sa più cosa c'è sopra e cosa c'è sotto, insomma, e qua c'è questa pittura, vedete, questo è tutto dipinto, sono quadri molto grandi, 2 metri, 140, però ci mettevo 2 mesi a fare un quadro del genere, quindi fare tutte queste linee, e mi dicevano sei matto, sì, probabilmente sono matto, però andavano fatti e li ho fatti e mi sono salvato, insomma. Questa invece è quella mia parte un po' più romantica, se volete, che ho ripreso nel disegno, ho ripreso nei taccuini, questo è una luna in un cielo notturno, un cielo nuvoloso con i fili dell'alta tensione, vedete, quindi c'è un elemento che dà una connotazione temporale, se no poteva essere un cielo anche antico. Questo era anche qua, oggi, temporale, questo era qui ero a Berlino, quindi un passaggio di un temporale e il riflesso sulla pozzanghera, questo era quello che, allora nel 2004 stavo molto male, non uscivo mai di casa e ho fatto una serie di lavori, si chiamava La Casa, ispirati in realtà all'osservazione del mondo attraverso tre finestre, per cui io dipingevo sempre le stesse cose in diversi orari del giorno e della notte, non uscivo mai, vabbè. Però dipingere mi ha aiutato a elaborare questa cosa. Questo era quello che vedevo dalla finestra dietro la casa, che era un parcheggio, c'era un campo da calcio di periferia, e questo parcheggio notturno, c'era questa macchina messa lì, non so se parcheggiata, abbandonato, cosa. Quindi ho fatto questo quadro, questa, anche qua un tempo sospeso, questi alberelli un po' spiriti e il tempo sospeso, cosa è successo, chi c'è nella macchina, è andato, è venuto. Insomma, diciamo che il dipinto non dà mai delle risposte, il dipinto pone delle domande, oppure stimola determinate cose, e questo io l'ho ritrovato anche, come diceva Itten del Bauhaus, il bravo insegnante non è quello che dà le risposte, è quello che pone le giuste domande. Perché le risposte le deve trovare lo studente, e la stessa cosa in fondo secondo me fa il dipinto ti stimola delle domande, dovrebbe quantomeno porti delle domande, dopodiché la risposta eventualmente la dai te, perché il dipinto è un atto privato, io dipingo perché ne ho bisogno, però nel momento in cui il dipinto è finito non mi appartiene più, ha una sua vita, viene preso da qualcuno oppure no, viene comprato, viene regalato, viene venduto, viene distrutto, e si relaziona con chi lo guarda, per cui trattiene ovviamente la mia storia, ma la elabora nella testa dell'osservatore, ognuno a modo proprio, quindi i dipinti a un certo punto camminano, vanno per la loro storia, per la loro strada, nella loro storia, e mi riguarda fino a un certo punto, nel senso che insomma io l'ho fatto, poi il dipinto fa quello che deve fare. È anche uno dei motivi per cui in realtà mi piace poco parlare di me, perché in fondo cioè il mio lavoro è dipingere, quindi il quadro che c'è, io posso anche non esserci, cioè sono qua a parlare e vi ringrazio che mi state ascoltando, e per me è bello, però preferisco che guardiate i dipinti, perché è quello che io so fare, insomma. Questo è un altro quadro, vedete, lavora sul contrasto luce-ombra, sulla ricerca della luce, sulla prospettiva, sull'idea di andare al di là, quindi dipinto come soglia, quindi di nuovo, cosa c'è al di là, il grande interrogativo. La pittura è uno di quei mezzi che permette di interrogarsi sulla grande domanda, che cosa c'è dopo la vita. L'arte è uno dei mezzi attraverso i quali l'uomo ha iniziato a interrogarsi su questo, a farsi delle domande e quindi a forse a consolarsi anche davanti al grande mistero della vita e della morte. Questi sono alcuni dei luoghi abbandonati che io ho visitato in tutti questi, praticamente sono 30 anni che ho fatto, adesso un po' smesso, però questo è un ufficio abbandonato, vedete anche qua l'idea, c'è una doppia soglia, c'è la soglia, anzi sono tre le soglie, c'è la soglia del dipinto, la soglia della porta e la soglia della finestra, e attraverso anche, questo è un quadro che mi piace molto perché c'è la trasparenza, no? di queste vetrate rigate, stile anni 60-70 più o meno, e quindi il non vedere, il vedere attraverso il velo che nasconde ma non del tutto, quindi qualcosa che viene visto soltanto in trasparenza, perché non lo puoi capire completamente, perché al di là lo puoi soltanto intravedere. I cieli, come vi dicevo, questo tra l'altro era un quadro che ho fatto per una mostra che riguardava la periferia, però la periferia l'ho fatta, vedete là in un angolino, è tutto cielo, come vi dicevo, il cielo scorre, in fondo se ne infischia delle nostre preoccupazioni, delle nostre tribolazioni e scorre e scopre sopra le nostre teste. Questo è un altro quadro, vedete qui è diviso proprio in due, c'è di nuovo il corridoio, c'è un lato il corridoio, l'altro lato questa natura attraverso questo vetro in movimento, è come una natura che si sta modificando, sta cambiando, sta cantando, sta ballando, quindi una parte molto, molto rigida, quell'altra in grande movimento. Gli archivi, vi ho già detto prima, l'idea dell'archivio, delle storie trattenute, dormienti, che possono restare lì anche secoli, le nostre storie, le vite, tutte le vite trascorse. Questo è un collegio che c'è a Bologna, il San Luigi, e mi piaceva perché c'era il due navi, vedete ce ne sono due navi in bacheca, quindi l'idea del viaggio trattenuto, la nave, anzi sono tre navi in tutto, la nave di un sogno, una nave non reale, una nave giocattolo, e poi questi ritratti di vecchi precettori, quindi di nuovo le varie esistenze, ed è tutto un quadro basato sulla luce, vedete, sulla luce riflessa, sulle pareti, sul pavimento, nelle teche, nei quadri stessi, insomma. Qui c'è l'introduzione alla natura, la porta, l'attraversamento, l'elemento della natura, che poi è il lavoro che sto facendo adesso, cioè quindi luoghi abbandonati e il ritorno alla natura. La natura che nel manifesto del terzo peggiato di Gilles Clément, un libricino edito in Italia da Quod Libet, lui dice che in 30-40 anni un posto non toccato all'uomo torna a bosco. Terzo paesaggio è quello... diciamo anche che abbiamo nelle città, nelle periferie, le stesse aiuole lasciate incolte, vedono il ritorno delle piante colonizzatrici, le cosiddette erbacce. In realtà le erbacce sono le prime che riportano la vita in luoghi, quindi da un punto di vista pittorico c'è un trasporto molto, molto emozionale, è la mia parte romantica, diciamo, però mi interessa proprio anche questa idea del ritorno della vita in luoghi che l'hanno avuta e sono in attesa di qualcosa. Finché l'uomo non agisce, la natura fa la sua parte, e questo è molto consolante, insomma. Anche qua c'è la trasparenza, vedete, e l'attraversamento, insomma, sono sempre quei due o tre concetti basilari, come vi dicevo, che ogni artista ha le sue sessioni. Qua c'è il riflesso, questo è un quadro enorme, un 3 metri per 2, qua vedete la terra è praticamente scomparsa, tutto è la mia elaborazione del concetto di vacuità, questo qua, per me questa, nel mio fare pittorico, è la rappresentazione della vacuità. Di nuovo il riflesso, questo è un po' più realistico, qui era Brooklyn, avevo lo studio da queste parti, da questo canale, e ho passato un sacco di tempo a osservare questo canale, perché era già la zona industriale, insomma, vicino c'era quella residenziale, però era un posto insomma, a cui ero molto legato. Questo è gemello di quell'altro, infatti li avevo fatti come gemelli. Qui è ancora più sprofondata la prospettiva e ha un effetto quasi optical, vedete, di spirale. Questa è una giostra di Coney Island, il parachute jump, vista però come riflesso, quindi è capovolto. C'è un pittore tedesco, Baselitz, che è famoso perché ribalta i quadri, lui ha trovato questa invenzione, tutti i quadri sono capovolti, testa in giù. Questa non è una citazione a Baselitz, ma è una citazione alla realtà come riflesso, per cui ho dipinto il riflesso, non ho dipinto la giostra. Questo è un soggetto berlinese, vedete anche qua i cieli, la luce, il riflesso, il gasometro riflesso, le rotaie, il viaggio, l'andare, la scelta, vado a destra, vado a sinistra, lo scambio delle rotaie, quindi in un attimo ci si perde, in un attimo ci si illumina, quel concetto di cui vi dicevo prima. Questi sono abbiamo quasi finito, questi sono i dipinti più recenti, dove c'è, come vedete, il discorso sempre sulla luce, ma con l'introduzione della natura, il bosco che si riprende tutto, quella era una casa abbandonata, questa era una fabbrica abbandonata. Ecco, questo è un quadro che mi piace molto, è esposto adesso a Modena. E questo qui era, se ricordo bene, era un ospedale abbandonato, quindi insomma tutte le storie ancora, no? I muri che hanno assorbito, sì, le tracce esatto. E questo è parallelo, anche qua riflesso, eccetera. E ecco, questo direi che sia l'ultimo. Sì, questo l'hai detto prima te, sunyata, la vacuità, esatto, io lo pronuncio male. Vacuità è il posto dove vivo io, sempre con queste nuvole, e sotto c'è scritto, se non si legge, ma è fatto a inchiostro, questa è una tecnica completamente diversa, ho riportato dei brani del Bardo Todol, perché era per un collezionista che se lo doveva mettere sopra la testata del letto, ho detto ok, ti scrivo tutte queste cose così ti proteggo. E quando devi morire sarai... Okay. un tuo sguardo. Sempre in questa dinamica fra vuoto e forma, allora, generalmente noi insegniamo, intendo dire negli ambienti psicologici, che insegniamo in un passaggio di psicologia e in un'integrazione fra psicologia occidentale e psicologia orientale, in particolare buddista, no? E noi possiamo considerare due vuoti, no? Cioè due caratteristiche, cioè quando diciamo vuoto possiamo generalmente pensiamo in Occidente al vuoto privativo, no? Cioè al vuoto di qualcosa che prima c'era e poi non c'è più, anche nel linguaggio parlato, quando le persone dicono mi sento vuoto, no? Mi sento vuoto, ho perso il senso. Questo da un punto di vista psicologico è il vuoto privativo, è il vuoto pieno di privazione. Nel buddismo invece il vuoto, e questo poi lo rivediamo ripreso soprattutto nell'arte giapponese, se non ne so poco, ma se penso agli haiku, se penso anche la rappresentazione del paesaggio giapponese, dal vuoto nasce la forma. Qui, non lo so, mi è venuto con me così l'idea, no? Come se, forse questo potrebbe essere come anche un'indicazione per noi, come se nei tuoi quadri, per arrivare al vuoto creativo, devi attraversare il vuoto privativo. Quindi diciamo si potrebbe dire la decomposizione, la consapevolezza dell'abbandono del tempo che fu, per poi avere come una zona di contatto fra lo spazio vuoto e quindi una ricostruzione, no? Queste sono come un po' pensieri folli spettinati, no? Ed è vero, perché se noi pensiamo che il vuoto sia solamente creativo, questa è una visione un po' ingenua e ottimistica. Per arrivare al vuoto bisogna attraversare la privazione. E mi viene in mente il fatto che i samurai disprezzano la paura della morte. Sì, è vero, non c'è compassione nel codice del samurai, è un'altra cosa. Però il passaggio psicologico è proprio quella del oltrepassare le categorie ingenuamente strutturanti. Attraversando la strutturazione, o come dice anche il Dalai Lama, essendo un pochino scettici. Ogni tanto il Dalai Lama, quando parla di Shunyata, dice: la pratica buddista è parte da una dimensione di scetticismo, che vuol dire, ok, cos'è questa cosa qua, no? Questa situazione che per me è esattamente così, però è esattamente così. Allora necessariamente c'è bisogno di una decostruzione della sicurezza della percezione. E quindi mi sembra che questo ritorno, questa decomposizione, no? Cioè come questa decomposizione, questo l'archivio, la ex fabbrica, eccetera, diciamo diventa come una posizione precedente al vuoto creativo. Quindi in questo caso, e forse anche la nostra strada occidentale, che prima è necessario passare attraverso il vuoto privativo per accedere al vuoto creativo. Prima la perdita e poi la creatività, no? Allora la creatività nasce dalla perdita. Allora la depressione intesa in termini esistenziali, che è la perdita, è il lutto, è l'impermanenza, è la consapevolezza della morte, eccetera, sono un passaggio obbligato, e le emozioni conseguenti sono un passaggio obbligato per accedere a questo vuoto creativo, così viene in mente. Sì, no, allora così potremmo adesso, se qualcuno vuole fare delle domande, chiedere qualcosa. Poi, una domanda tecnica, quando usi il colore, volevo sapere tecnicamente quando usi il colore, cioè ci sono le chine, è tutta china? Sì, nel taccuino che avete visto, e anche in questo lavoro qua, sono inchiostri, pennarelli e china. Nei lavori precedenti come questi invece è olio stellalino. Il taccuino è quello che stava girando, è fatto a pennarello e inchiostro di china diluito, sì. Poi praticamente con il scalando dovrei trovarlo, no. Sfruttando praticamente le varie diluizioni dell'inchiostro, arrivi a un maggiore contrasto cromatico. Poi il bello della carta è che hai anche la trasparenza, vedi, di quello che c'è dall'altra parte che emerge, no? Quindi è bello perché usi a tuo vantaggio l'errore. Quello che passa dall'altra parte è una macchia che in realtà diventa bella. Questa è una cosa che mi è sempre piaciuta, ad esempio, del fatto di dipingere delle periferie, dei luoghi abbandonati, cioè di portare bellezza e quindi dignità dei luoghi che sono visti come brutti, sono problematici per tante ragioni, perché le amministrazioni non sanno cosa farci, perché riqualificarli è molto costoso, perché sono luoghi legati a un'idea di degrado, e quindi invece la pittura ha questa possibilità anche di dare dignità, quindi di questo aspetto di trasformazione. Quindi in questo caso la macchia viene resa bella, viene resa utile. Poi dipende dalla consistenza della carta. Questa qui è una carta abbastanza sottile, ma carta un po' più grossa regge di più l'acqua, e quindi puoi fare più velature, quindi dosare il contrasto cromatico aggiungendo sostanzialmente. L'inchiostro lo puoi usare, è diverso dall'olio, ma come l'olio lo usa a velatura, in realtà anche l'inchiostro lo puoi usare a velatura, puoi fare vari passaggi diluendolo di più o di meno, insomma usando la carta asciutta, usando la carta bagnata, per cui... sì, tra l'altro vedi, questi qui sono proprio molto veloci, sono proprio schizzi fatti, però a me piacciono molto perché mantengono una, chiamiamo anche una parola che non mi piace, però insomma, una freschezza che, sai, mentre il dipinto è congelato, è cristallizzato, il tempo è cristallizzato, c'è un soggetto che deve reggere tutta la questione, nel taccuino o nei disegni c'è la successione, c'è la sequenza, quindi l'opera non è il singolo disegno ma è l'insieme dei disegni, è il taccuino stesso, la sequenza dei disegni, quindi è una differenza sostanziale, perché nel disegno distribuisci. Più libera, più veloce. La mia curiosità è se in questo tipo di cose che tu fai hai un progetto predefinito e questo ne va dove vuole lui, No, nei taccuini va un po' dove vuole lui, anche perché questi qui sono, peraltro quello che state guardando è di 194 pagine, quindi è ha un sacco di pagine e quindi viene realizzato, anche come vi ho detto, io l'avevo iniziato anni fa, poi l'avevo interrotto, e è un flusso di pensieri dove aggiungo notazioni in maniera anche abbastanza caotica, se no diventerebbe vincolante. Cioè il bello del disegno è proprio la sua velocità, sta nella velocità, nell'immediatezza. Infatti, ad esempio, il limite del taccuino è la fruizione, nel senso che nelle mostre purtroppo mi è capitato che mi hanno strappato le pagine, me ne hanno rubate, quindi non ti puoi fidare di lasciarlo nelle mani di tutti se non è controllato, quindi ad esempio lo posso esporre dove si vede soltanto una pagina, e se no vengono proiettate tutte le pagine, che è come se tu lo sfogliassi, così lo vedi in sequenza, proprio perché anche questo aspetto narrativo, no? di successione di immagini dopo l'altra, che riporta anche alla narrazione cinematografica del fumetto, insomma c'è uno scorrere, mentre il dipinto è tutto congelato, no? È proprio una questione di concentrazione e di tempo esecutivo. Qua la concentrazione e il tempo esecutivo è distribuita in tante pagine, nel dipinto è tutta concentrata in un'immagine sola, quindi cambia ovviamente molto anche l'energia stessa dell'opera, insomma. Ti faccio una domanda io che forse interessa a tutti, cioè, quindi tornando un po' alla pratica magari del praticante a cui viene insegnato di meditare tutti i giorni, no? Quindi mattina, pomeriggio, sera, oppure meditare per noi, no? La meditazione è anche non seduti, camminando, insomma ne facciamo tante, no? Di queste esperienze, invece c'è questo tuo dipingere meditando, è quotidiano, cioè come in che rigore lavori, diciamo, come anche il progetto di un quadro, no? Quando comincia, quando le tappe, un po', se ci puoi raccontare, se ti senti di raccontare questo. Sì, no, è un aspetto centrale. Allora, la meditazione l'ho praticata, la faccio ancora, ed è un elemento decisivo. Mi interessa molto l'applicazione poi della consapevolezza, no? nella quotidianità, quindi la familiarizzazione con l'osservazione dei pensieri, con l'analisi della mente, quando la mente osserva la mente, si intitola il taccuino. Per cui il dipingere ha un aspetto progettuale, perché è legato comunque, nel mio caso è anche il mio lavoro, quindi le cose sono molto mescolate, per cui devo pensare di realizzare una certa opera per una mostra, scansionare le immagini, eccetera. Quindi c'è un aspetto esecutivo proprio, che è pratico, però negli anni è diventata appunto la mia pratica quotidiana. C'è questo libro di Gerhard Richter, un pittore tedesco molto importante, che si chiama proprio La pratica quotidiana della pittura, quindi cosa cambia rispetto a un pittore che non conosce, questo percorso? Credo la consapevolezza, cioè c'è chi dipinge soltanto come per piacere, o appunto come momento dove si manifestano anche le proprie ossessioni. Invece, conoscendo questo percorso, tu hai la possibilità di utilizzare il dipingere come pratica. Però dipende ovviamente dal tuo atteggiamento. Io peraltro ho provato anche a dipingere dei mandala con la matashi, ne ho fatti alcuni, partendo proprio dal disegno, quindi con il goniometro, con il compasso, e mi è piaciuto molto, quindi è stata una pratica anche quella molto bella. Però ho questo limite che ti dicevo prima rispetto alla presentazione dei soggetti sacri, che secondo me va lasciata a chi fa un percorso molto più rigoroso del mio. mi sento inadeguato rispetto alla rappresentazione del sacro, quindi cerco più che altro invece di portare quella che è l'esperienza del buddismo all'interno della mia pittura, all'interno del mio disegnare. Poi sì, il disegnare tutti i giorni diventa come un respiro, diventa come un nell'ultimo film dedicato a Van Gogh, con William Dafoe che interpreta Van Gogh, di Julian Schnabel. Julian Schnabel è un pittore che è diventato anche regista, ha fatto un film anche dedicato a Basquiat. C'è un momento in cui Van Gogh dice al dottor Gaucher: io dipingo per non pensare. E il dottore dice: è come una meditazione. E lui dice: sì, è come una meditazione. Ora, io non so se questo dialogo c'è stato realmente ai tempi di Van Gogh, perché non so se si parlasse di meditazione all'epoca. Probabilmente è un'invenzione di Schnabel. Però è interessante, cioè, il fatto di dipingere per non pensare, quindi bloccare il flusso di pensieri, perché tu ti concentri su l'atto, su il fare, su il lasciare un segno, come risolvere la prospettiva, come risolvere la composizione. Quindi sostanzialmente, pensando a poche cose pratiche, contrasto chiaro-scurale, come diluire il colore, come usare il segno, in realtà stai bloccando il flusso caotico dei tuoi pensieri. Poi, se in più aggiungi consapevolezza mentre disegni, fai una cosa quasi perfetta, insomma. Poi questa cosa che Van Gogh diceva, io dipingo, quindi lui che aveva, sappiamo, insomma, dei problemi, il fatto che gli venga fatto dire che io dipingo per non pensare, ecco, la pittura anche come modo per farsi del bene, non so se addirittura guarirsi, non so se curarsi, ma quantomeno farsi del bene. Io credo che sia anche un modo per capire maggiormente, perché poi il segno soprattutto è un'analisi, il disegnatore osserva, il disegnatore guarda, e nel tracciare il segno capisci come sono fatte le cose, quindi è un grande lavoro di analisi e di studio. Tant'è che appunto quello del chiamiamolo artista, comunque del pittore, è un'attività che non si ferma mai, perché cambia l'approccio, cambia lo sguardo rispetto alle cose. Questa è una cosa che io dico anche ai miei studenti, cioè voi in realtà dovete osservare continuamente con gli occhi del pittore. È come quello che diceva: come faccio a spiegare a mia madre che anche quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? Perché è così, perché tu stai pensando, stai osservando, stai elaborando, esatto. Dopo dipende dalla tua onestà intellettuale se effettivamente lavori oppure no, però dai l'idea di lavorare anche se non stai facendo niente. Però è vero, perché credo che sia uno strumento come tanti, come non è certo il solo. Io ho scoperto di avere questo talento e ho deciso di fare questo. Mi sarebbe piaciuto fare il chitarrista in una punk band, ma non ero capace di suonare la chitarra, e quindi ho detto: vabbè, so disegnare, facciamo questo. Ho avuto questo talento e lo uso. Cioè, se ognuno trova sostanzialmente qualcosa che capisce che lo può fare bene, ognuno di noi secondo me sa fare qualcosa bene, farlo con questa attitudine gli può dare molto, al di là che diventi artista o non artista, che il tuo lavoro non è il tuo lavoro, questo è un altro problema. Come diceva qualcun altro, le mostre, il successo, il denaro, non c'entra niente con la pratica artistica. Purtroppo molti miei colleghi hanno i famosi veleni mentali, no? Sono contaminati da questo pensiero, dall'edonismo, dall'esibizionismo, dal narcisismo che purtroppo impera in questo ambiente. E io devo dire, li guardo delle volte un po' sgomento, perché, come dire, appunto con compassione, perché sono sulla cattiva strada, non hanno capito, cioè non hanno capito che questa è una conseguenza. Il punto è: osserva il mondo come riflesso di te stesso. Disegnando il mondo stai disegnando te stesso e puoi quindi capire tutte queste cose che sono poi al centro del pensiero buddista, che sono quelle che ti salvano sostanzialmente. Se invece sei trascinato dalle conseguenze della pratica artistica, cioè l'edonismo, l'esibizionismo, l'ego, sei fottuto, non ci salti fuori, cioè ti ritorna, come dire, è una cosa positiva, è come infilarsi la matita in un occhio, insomma, è un boomerang, esatto. Quindi è una grande opportunità, ma va giocata bene, tutte le grandi opportunità possono anche essere giocate male, insomma. Qualche altra domanda? Da questo? No? Sì. Porto qui. Volevo chiederti come nascono i tuoi dipinti, specialmente quelli dell'architettura industriale, cioè a partire da una fotografia, o perché visto che parlavi di dimensioni molto importanti, ho pensato, immagino che non sia una pittura in plein air. È la belletta. C'è un problema pratico che è appunto quello di entrare in luoghi abusivamente. Quindi devi essere veloce, perché hai tutta una serie di problemi. Entri abusivamente, quindi... Sì, sono le mie origini, infatti, adesso non lo faccio più perché sono diventato vecchio. Quindi capitano tutta una serie di situazioni, mi ha fermato la polizia, eccetera, ma lo accetti, è una conseguenza anche questa. Per cui fai fotografie molto velocemente, io non sono fotografo, faccio delle fotografie che sono degli appunti. In più c'è anche il discorso del rapporto del pittore con la tecnologia, cioè i pittori si sono sempre rapportati con la tecnologia. Anche l'evoluzione della pittura in senso più realistico avviene verso nella seconda metà del 400, quando c'è la tecnologia dell'epoca sviluppa le lenti. Quindi i pittori, c'è un libro molto bello, si chiama Il segreto svelato di David Hockney, che parla proprio di come i pittori, relazionandosi con gli strumenti ottici, iniziano a elaborare uno stile pittorico più realistico. Non è che prima non sapevano dipingere, semplicemente iniziano a utilizzare la proiezione. Questo è una sorta di proiettore ante litteram che si chiama camera oscura, che inizia ad essere utilizzato verso la fine del 500. Non tutti i pittori lo usano, poi via via viene documentato, lo usa ad esempio Vermeer, lo usa Canaletto, lo usano in tanti, fino a che Daguerre inventa il daguerrotipo, cioè la prima macchina fotografica. Il daguerrotipo non è altro che una camera oscura con l'inserimento di un foglio con una superficie che si impressiona con la luce, ed è quindi un'invenzione di un pittore. Daguerre è uno scenografo, quindi la macchina fotografica è l'evoluzione di uno strumento che usavano i pittori per ottenere un risultato più realistico. Quindi anche il rapporto con la tecnologia attuale, cioè quindi il computer che mi permette di rielaborare alcuni soggetti o di ingrandire certi dettagli, o la macchina fotografica nel cellulare che mi permette di fotografare velocemente in certi posti, poi devo scappare perché ho i cani che mi corrono dietro, è un rapporto con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Poi tutto questo lo riporto però in un fare, in una pratica che è tradizionale, cioè c'è comunque un disegno a matita e un dipinto col pennello e con l'olio. La tecnologia ci permette, volendo, di anche stampare su tessuto e quindi fare degli interventi, c'è chi lo fa, ma io che sono matto non lo faccio perché ci metto più tempo, perché il tempo necessario a ridisegnare tutto il soggetto e a dipingerlo manualmente è un tempo che io ritengo doveroso anche nei confronti del rispetto verso il luogo, cioè io ridisegnandolo e dipingendolo, impiegandoci tanto tempo, lo conosco. Se usassi la velocità di uno scatto fotografico con qualche passaggio di velatura di colore sopra, ottengo un'immagine faccio un dipinto in una settimana anziché un mese, però a parte che non è un dipinto, è una tecnica mista, e soprattutto lo realizzerei con dei tempi troppo veloci. Mi sembrerebbe di non essere abbastanza rispettoso nei confronti del soggetto, e anche di ingannare un po', è anche un po' di ingannare, perché comunque sotto ci sarebbe una stampa, non la faccio. In questo modo faccio meno quadri, però sono secondo me più, più intensi, cioè questa energia, no, il tempo rallentato, questa energia che io metto giorno dopo giorno, in qualche modo, a mio parere, poi sarà forse solo un'illusione, non lo so, ma entra anche nel dipinto, lo trattiene, quindi il dipinto stesso poi rilascia tutto questo, sì. Diverso invece per questi qua, per i taccuini sono veloci, sono disegni, ritorna invece di più l'aspetto in plein air. Ma la stessa pittura in plein air deriva dalla tecnologia. I pittori iniziano a dipingere in plein air quando viene inventato il tubetto in alluminio. Prima i pittori che realizzavano i colori in studio avevano l'assistente che lo faceva e li conservavano per un po' nelle vesciche degli animali. Però duravano poco. Quando la tecnologia mette a disposizione del pittore il tubetto d'alluminio, che quindi dura nel tempo, i pittori dicono: ah, ma allora posso anche andare fuori, quindi vanno fuori. E sempre in quegli anni la rivoluzione dell'impressionismo si ha grazie agli studi sul colore, quindi la tecnologia e la scienza. Gli studi sul colore che aveva avviato prima Newton, poi Goethe. E c'è il manuale dei colori di Chevreul, che è un tecnico della manifattura dei tappeti, in realtà, di Parigi. Lui realizza questo primo testo scientifico sul colore, e quindi gli artisti iniziano a rapportarsi col colore in maniera scientifica, per cui anche l'arte, sì, c'è questo moto personale, c'è questa componente impalpabile, difficile da descrivere, che è il nostro sentimento, il nostro animo, quello che noi sentiamo, il nostro feeling, però sempre in rapporto con la scienza e la tecnologia, perché comunque il pittore davanti al foglio bianco, davanti alla tela bianca, si pone il problema di come risolverlo, quindi devi avere delle conoscenze. È quello che dico anche ai miei studenti, cioè il pittore è un uomo che pensa e realizza, il solo pensiero non basta, quindi devi conoscere la tecnica è quella cosa che ti permette di realizzare il tuo pensiero, per cui ci vuole l'elaborazione concettuale, cioè ci vuole un'idea, ci vuole un contenuto, ma poi devi sapere come farla, come realizzarla, altrimenti rimane soltanto un pensiero. Quindi è un po' metà strada fra l'intellettuale e l'artigiano. Infatti, non a caso, il corso di pittura è considerato teorico laboratoriale, il corso teorico, perché sono entrambe le cose, c'è una parte teorica e una parte esecutiva. Quindi molto bello, perché in fondo tu attraverso una tecnica, è così anche per un regista, in fondo il cinema è l'elaborazione della fotografia che è l'elaborazione della pittura, quindi tutto è collegato, no? Riesci a dare forma a un pensiero, tu hai un'intuizione e quindi cerchi anche la tecnica più adatta a realizzare questo. Io col taccuino so di ottenere un certo tipo di risultato, con l'olio ne realizzo un altro, quindi scelgo a seconda del risultato finale che voglio ottenere. Ma è anche proprio una faccenda molto, molto fisica, cioè io dopo tanti anni che ho dipinto ho sentito l'esigenza di tornare alle origini, quindi tornare al disegno maggiormente, perché come 20 anni fa non è che mi fossi stancato, ma avevo capito che col disegno avevo già detto tanto, avevo bisogno di esplorare un altro percorso. Oggi ho sentito che tutto il percorso della pittura in qualche modo ha detto tanto, non è ancora esaurito, ma ha già detto tanto, quindi ho detto: ma perché non torno al disegno attraverso l'esperienza della pittura, attraverso l'esperienza della ricerca della luce che ho fatto con l'olio? Quindi tornare agli inchiostri con la consapevolezza che ho avuto della ricerca della luce sull'olio. E stanno uscendo queste cose e mi diverto, quindi va bene, perché ci deve essere anche una componente ludica nel fare artistica, se no fai qualcosa d'altro. E ti intossichi anche meno, perché quei quadri meravigliosi li fa con la trementina, che se voi non conosci. Che se voi non sapete cos'è. Dunque, se noi avessimo la stessa passione quando facciamo meditazione, la stessa concentrazione, no? Nel senso, come pratica, otterremo dei risultati meravigliosi. Volevo chiedere, in questi disegni dove c'è il riflesso, se questo riflesso l'hai veramente visto nei luoghi oppure l'hai aggiunto tu. Ma guardi, il riflesso nasce in questo modo: ero andato all'ex Serie Falca a Sesto San Giovanni, un complesso gigantesco che è stato via via abbandonato. Io non è che voglio per forza entrare abusivamente nei posti, se possibile chiedo l'autorizzazione, però spesso la negavano, no? Quindi quel caso lì io ho chiesto l'autorizzazione, non me l'hanno data e ho detto vabbè, io entro lo stesso, no? Quindi peraltro alcuni posti c'erano già degli architetti che stavano guardando come fa la ristrutturazione, eccetera. Quindi io mi sono un po' camuffato e sono entrato. Era piovuto, spesso in questi luoghi il soffitto o cade, o se ci sono delle operazioni di bonifica viene tolto, perché spesso c'è l'amianto, quindi la prima cosa che fanno è togliere il soffitto. Quindi ho trovato per terra queste pozzanghere, no? Guardando per terra ho trovato quello che sta in alto, no? Questa idea del ribaltamento, ciò che è sopra sta sotto, cos'è che sta sopra, cos'è che sta sotto. E mi sono emozionato molto, ho detto, ma che bello, no? Il cielo è sulla terra. E quindi dov'è il cielo? Quindi mi ha avviato questa riflessione, che poi appunto ho trovato quando poi l'ho letta nei testi, no? Quando parlano delle realtà come riflesso, ho detto beh, perfetto, è quello che sto facendo io, è fantastico. Poi in realtà da un punto di vista poi prettamente pittorico e compositivo è bello, perché sfrutti anche questo questo ribaltamento, e quindi la composizione secondo me risulta molto, molto forte, molto, molto piena, e lavori il doppio, perché dipingi prima e poi dopo devi fare anche la parte sotto, quindi. Però poi quindi in alcuni quadri in realtà poi il riflesso l'ho aggiunto io. Ecco il discorso della tecnologia, cioè parto da un primo sguardo, poi magari col computer ricostruisco la parte mancante e così quando vado a disegnare ho una prima idea abbastanza precisa, perché mentre col disegno l'errore non si nota, anzi l'errore è bello, nella pittura che avete visto prima deve essere tutto molto preciso, non c'è spazio per l'errore, quindi va tutto elaborato, c'è tutto un lavoro a monte prima di iniziare a disegnare, di aggiustamento delle linee, delle prospettive, delle distorsioni che può avere la macchina fotografica, va tutto corretto prima. Qui invece è tutto molto più libero, insomma, per cui... Sì. Qualcuno vuole chiedere? Ma il taccuino te lo porti sempre dietro? Perché alcune cose sembrano elaborate alla scrivania, quando scrivi, o magari alcuni disegni sembrano, comunque sono veloci, ma sembrano essere frutto di un'elaborazione più... Ciao. E alcune cose invece appunto sembrano, come lo dicevi, ti riporti dietro, sono prese dal vero, insomma. E perciò ce l'hai sempre con te, lo tiri fuori nei momenti o programmi di... È bello portarseli dietro e disegnare, insomma, ecco. Quello che Moleskine nasce proprio come quaderno di appunti degli scrittori, no? Infatti quella non è una carta perfetta per disegnare, molto, è molto sottile, è anche molto fragile, però esatto, non sono riuscito a non distruggerlo, quindi il bello del taccuino è che lo tieni in tasca, lo tiri fuori quando vuoi. Poi a livello pratico esecutivo sì, alcune cose le faccio in studio, ma magari per una questione di tempo, no? Sto viaggiando, vedo delle cose, faccio la fotografia col cellulare, dico poi quando sono in albergo lo disegno, oppure io quando ero più giovane me ne fregavo di più anche, e quindi disegnavo dappertutto, disegnavo in viaggio, disegnavo in treno, però è un po' pesante perché tutti poi ti guardano, perché fai una cosa un po' strana, no? E quindi c'è un po' sta pesantezza dello sguardo dell'altro che dice cosa sta facendo quello, e allora anche un po' per pudore magari lo faccio anche in questo caso uso la tecnologia, cioè faccio la foto col cellulare, poi dopo me la tengo lì e la disegno in studio. Però quando posso disegno anche dal vivo, sì, è un po' un cogliere l'attimo, cioè a seconda della situazione hai sfrutti quel... Perché poi, ad esempio, per questo tipo di pagine che non assorbono molto, quando vai con l'inchiostro molto diluito, si impregna tutto, devi metterci la carta assorbente in mezzo e devi aspettare qualche giorno prima che si asciughi, quindi in quei casi lì lo devi tenere fermo a riposare, perché altrimenti se ci intervieni sopra strappi le pagine perché si inzuppano proprio, e quindi insomma devi un po'... Devi avere l'elasticità mentale di adattarti alle varie situazioni, sia insomma di quello che stai facendo, sia della carta che hai, dei pennarelli che hai. Non so, mi è capitato tante volte di scoprire delle cose casualmente, cioè mi finisce un pennarello, nessun problema, ne prendo un altro, ma vabbè che questo, cioè non ottengo quello che volevo ottenere prima, ma ottengo dei risultati più belli. E qui devo dire è merito del Dalai Lama, quando avevo letto, no, che diceva: quando le cose non vanno come avevi pensato, può essere un gran colpo di fortuna. Io questo l'ho trovato molto nel mio lavoro, cioè ho finito la tela di grana fine, come faccio? Provo quella di grana, ho della grana media, oppure ho della carta, provo la carta e ottengo delle altre cose, insomma, e che sono forse migliori o comunque diverse, quindi inizi un percorso diverso, quindi impari delle cose nuove, perché poi se ripeti sempre la stessa cosa non impari niente di nuovo, insomma, quindi... Allora, se non ci sono altre domande, poi ormai siamo al termine. Io vi voglio leggere una cosa da cui poi è nato tutto questo, tutto ciò. Ve lo voglio leggere. Allora, di un grande maestro che è Dagpo Rinpoche, dice: come si disegna la forma delle cose, nello stesso modo è necessario disegnare la propria mente sulla carta della perfezione. Prima che venga dispersa l'apparenza di questa vita, bisogna scrivere sul foglio bianco della mente il disegno della pratica e delle realizzazioni. Questa così è la cosa da cui è partito un po' tutto. Grazie di essere venuti, grazie ad Andrea, e questo è così l'inizio, ci saranno altri incontri, e cercate di venire. Grazie. Grazie. A te. Soprattutto grazie a te, non avrei saputo come fare.